Unità 1. Grammatica. Traccia 7. Rosa, vieni. Ti presento la festeggiata. Questa è Martina, la padrona di casa. Piacere, Martina. Ciao, io sono Rosa. Auguri di buon compleanno, allora. Grazie. Come va? Ti diverti? Sì, la musica è bella e ho già conosciuto un po' di gente. Lui è Stefano e lei è Cristina, un'amica mia e di Jean. Ciao, io sono Martina. Piacere, sono Cristina. Buon compleanno e complimenti perché la festa è bellissima. Grazie, mi fa piacere. Io sono Stefano, auguri. Grazie. Ma toglimi una curiosità, ho saputo che c'è anche un'altra festeggiata, è vero o è uno scherzo? No, no, non è uno scherzo, siamo in due, io e Viola. Viola è una mia carissima amica, ma non è di qui, è di Firenze. Ci siamo conosciute al mare e siccome siamo nate nello stesso giorno, ci piace festeggiare insieme. Siamo tutte e due dei pesci, sì, infatti i nostri amici del mare ci chiamano le due pescioline. Siamo nate il 4 febbraio e l'anno no, è un segreto. Allora, per sapere quanti anni compi, dovremmo contare le candeline sulla torta. Eh sì, proprio così.